sono tutto influenzato, e la 50 ugualmente, e questa è brutta, è l'influenza. C'è qualcuno qua? Chi è avanti? E quindi, vabbè, non ve ne sciuro. Pronto. Hola, cane di. Hola. Vabbè, c'è qualcuno qua. C'è sempre qualcuno, ma... Ciao, Gianfrae. Ammalato sono, tutti e due, io e mia moglie ci siamo passati, ui, roba di influenza vera. Brutto l'anno, Natale, quest'anno è il 2017, è un annaccio proprio di sì, tremendi, ma cattolica. Oh, siamo qua. Chi è qua? Attenzione 10, c'è qualcuno a quest'ora? Buonasera. Siamo Brecco, attenzione cane 10.